Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10:08 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero e comincia anche più tardi, anzi inizierà la possibilità di portarvi a casa la guida alla mostra di Picasso a Milano insieme al biglietto d'ingresso. Vi ricordo che invece nella prossima puntata del gioco, che va in onda alle 11:30, potrete riuscire a portarvi a casa un bel viaggio per due persone a Malaga. E quindi vi spiego subito cosa dovrete fare per portarvi a casa comunque il catalogo della mostra e il biglietto. Dovete indovinare l'opera di Picasso che in qualche modo è legata alla canzone che vi faccio ascoltare. La canzone è questa. E perché vuol vedere le gambe, il mio sedere, vestiti trasparenti, li accontenterò. Questa è una mina di molti anni fa. Questo è l'indizio per riuscire a scovare il titolo dell'opera di Picasso che dovrete indovinare. Potete prenotarvi già da adesso al numero verde 800 24 00 24. Si gioca alle 11:30 con Picasso in 24 minuti. Ma veniamo invece alla puntata di oggi, la puntata dedicata a quello che ormai è un mezzo, devo dire, di moda. Io detesto un po' questa parola, cioè proprio non mi piace. Quando una roba è di moda, di solito io mi allontano, non mi ci avvicino. Però è chiaro che quando c'è qualcosa che funziona, che piace e che comincia a entrare nella testa delle persone, insomma, è giusto in qualche modo cavalcare l'onda e parlarne, perché no? Cerchiamo di farlo nel riposo del guerriero. Oggi parliamo di biciclette, di vita a due ruote. La vita a due ruote, che non è soltanto una vita in sella appunto alla bici, ma è anche un modo di pensare, di muoversi, un modo indubbiamente di risparmiare, un modo, tanto per usare una parola che funziona, ecosostenibile di vivere. Insomma, oggi è così. Voi come vivete la bicicletta? La usate? Vi piace? Detestate i ciclisti perché vanno in giro di sera senza luci, non si vedono e diventano pericolosissimi? Allora oggi forse vi ricorderemo ancora una volta che le luci servono non tanto per voi a vedere, ma tanto per farvi vedere, che è fondamentale, e tanto altro. Oppure invece li amate, vi appassionate alla bici, vi piacciono le piste ciclabili, invece le odiate, oppure le usate per parcheggiare la macchina. Insomma, come vivete il mondo a due ruote? Oggi ne parliamo con tanti ospiti come sempre. Il numero per gli sms 349 238 6666, la pagina di Facebook dedicata al riposo del guerriero, e ovviamente non potevano mancare i Queen. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is lie. Forget all your duties, oh yeah. Kane. You say John. I say Wayne. Hot dog. I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Johnny A. I say Please. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle. Yeah. Fammi sapere quanto sono vecchio, vi ricordo che io ho il 45 di questa canzone dei Queen, che è Bicycle Race, e sull'etichetta c'erano tante biciclette in posizioni diverse, come i fotogrammi di un film, e appoggiando un apparecchietto fatto di specchietti sul lettore, sul giradischi. Allora vedi lì le biciclette che andavano, insomma, tipo film. Vabbè, ho questo bel ricordo, però... Simone Dini, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, tu sei un attivista e portavoce di Salva Ciclisti. Oggi parliamo proprio di un modo come salvare i ciclisti che rischiano tutti i giorni la vita in giro per le strade italiane. Innanzitutto, secondo me, cambiando un po' la prospettiva abituale, che è quella di come il ciclista si salva nella giungla urbana. In realtà con Salva i Ciclisti abbiamo proprio tentato di capovolgere questa prospettiva, ma è di cominciare a pensare a come invece gli amministratori delle nostre città possono rendere più sicure, più a misura d'uomo. Che poi in qualche città funziona così, poi ne parliamo sicuramente. Volevo tornare su una cosa, prima ci stavamo parlando fuori onda e io così ironicamente ti ho chiesto: secondo te perché ho fatto una puntata sulle bici? E tu mi hai risposto: perché è cool, nel senso che è una cosa, non so è se di ho moda. La parola cool. No, no, hai fatto bene, non è una parolaccia, vuol dire è di moda, per insomma tradurre in modo così semplice. E stavo notando che nel testo dei Queen lui dice proprio così, dice che è cool andare in bicicletta, per cui comunque era già così da sempre così. È sempre stato così, è sempre stato cool, perché secondo me una cosa quando funziona davvero, quando c'è una magia dentro che non riesci neanche a spiegare, è impalpabile e trascende anche dall'epoca storica e dalle mode del momento. E la magia della bicicletta è la magia della leggerezza, dell'efficienza, della libertà, se vuoi, della libertà dai vincoli che poi ci danno le strade trafficate. Ecco, infatti, città. Quando una persona così, per curiosità, anche se non lo fa abitualmente, comincia a girare una città, anche la sua città, con la bicicletta, scopre cose che non aveva mai visto, perché puoi veramente andare davanti alle vetrine dei negozi, lo dico banalmente, ma lo fai con la bici, e una cosa con la macchina invece non puoi assolutamente fare, quindi ti perdi veramente molto anche del posto dove vivi. Certo, ti perdi molto del posto dove vivi, ti perdi molto anche delle persone che puoi incontrare, ma che chiuso dentro una scatoletta, isolato dal resto del mondo, evidentemente non puoi fare. Ne parliamo oggi, chiaramente cerchiamo di raccontare la bici in tanti modi diversi e sicuramente non tecnici. Il numero per i messaggi lo ricordo ancora: 349-238-6666. Però a questo punto la bici dobbiamo accantonarla, magari l'avete montata sulla vostra auto per portarla da qualche parte. Sono aggiornamenti sul traffico automobilistico. Allora, prima di entrare in salvaciclisti.it, cioè c'è anche il sito, poi insomma si chiama Salva Ciclisti, ovviamente il movimento popolare, poi mi racconti un po' come è nato, ci racconti. Certo. Volevo già leggerti questo messaggio, ovviamente arriva da Francesca, dice: da assidua pedona non sopporto i ciclisti arroganti sui marciapiedi, io sfido chiunque a pedalare sul pavé a Milano. Sì, la maleducazione è sbagliata, è sempre trasversale, esatto. Cioè non è che è tipica dei ciclisti o degli automobilisti. Esiste, o dei pedoni. O dei pedoni, assolutamente. Esiste il ciclista cafone imprudente, esiste l'automobilista cafone imprudente, solo che il ciclista porta un mezzo che al massimo può pesare 15 kg, l'automobilista si porta una tonnellata sotto, quindi ha un livello di pericolosità un tantinello diverso. Sì, ecco. Anche quando va piano. Anche quando va piano. quando va piano di meno, ecco, però anche quando va piano. E quindi non posso che risponderle così, cioè una questione di buona educazione che vale per tutti, che vale, ecco, per vale tutti. Anche, cioè, io chiedo, dico una cosa ai pedoni, è verissimo, perché insomma sui marciapiedi non bisognerebbe andare non con la bici, dovrebbe. E se la strada è asfaltata, però quando la strada non è asfaltata e ci sono i binari del tram, tipo il pavé, lo dico, Milano è una realtà di questo tipo, è molto pericoloso andare sul pavé, perché è disconnesso davvero, cadi. E proprio l'altro giorno ho visto una ragazza prendere e infilarsi nei binari del tram con la bici e cadere, no, ovviamente, come al solito. E quando si cade, se c'è il tram dietro, non è molto divertente, certo, è pericoloso. Allora, come nasce Salva Ciclisti? Salva Ciclisti nasce come campagna, innanzitutto, come diciamo una campagna lanciata dal Times di Londra, ripresa a seguito della morte di una giornalista, dell'incidente gravissimo, quasi mortale, di una giornalista del Times di Londra, e ripresa pochi giorni dopo da un gruppo di blogger italiani che hanno lanciato la prima Critical Mass digitale e hanno inventato un nome nuovo, Salva i Ciclisti, appunto, e riadattato il manifesto della campagna Cities Fit for Cycling del Times di Londra, riadattato alla realtà italiana, e lanciato questa campagna online per fondamentalmente riappropriarsi delle città e richiedere città più a misura di uomo e di bicicletta, e aumentare la sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti. Da quanto tempo c'è il movimento? Da febbraio del 2012. Quindi cioè, da poco tempo. Da pochissimo. Qualcosa sì, si è mosso secondo te? Qualcosa sì, qualcosa si è mosso, qualcosa si muove, sempre troppo poco, perché poi noi con la bicicletta bisogna pedalare. Siamo abituati a muoverci tanto, anche perché se non ci muoviamo cadiamo, insomma, sì. Il bello della bicicletta è anche questo. E qualcosa si sta muovendo, qualcosa si muoverà ancora di più questo weekend, il 5-6 a Reggio Emilia, che partiranno gli stati, 5-6 ottobre a Reggio Emilia, partiranno gli stati generali della bicicletta e della mobilità nuova, in cui tutti i soggetti portatori di interessi nell'ambito della mobilità leggera si riuniranno sì, una parola, scusate, complessa, sono tanto troppe R, ci sono in poco tempo, riuniranno per diciamo fare un po' lobby, no? Perché esiste una lobby dell'automobile, è giusto che esista una lobby della mobilità leggera e alternativa. Anche io non amo molto la parola lobby in generale, e non, io personalmente non amo le cricche, ecco, non vorrei che poi diventasse così, anche lo spirito del ciclista non diventasse un po' una cricca, no? Ah, io sono un ciclista, sì, lasciami stare. Guarda, c'è un amico e attivista anche lui, Alberto Fiorillo, ha scritto un bel libro che si chiama Nobici, in cui scrive che sogna città senza biciclette, no? È un po' provocatorio, ma sogna città senza biciclette nel senso di senza biciclette agitate come feticci. Purtroppo in questo momento, in questa fase iniziale, il fatto che la bicicletta sia un po' di moda aiuta, sì, ma certo, in realtà conto che in una 10-15 anni, sono ottimista, la bicicletta entrerà a far parte nella vita quotidiana di tutti. Come succede ad Amsterdam da molto tempo, esatto, faccio un esempio, o a Bolzano, semplicemente, esatto, oltre la metà, forse di più, dei cittadini di Bolzano si muovono, esatto, in bicicletta, esatto, ma perché la città è completamente ciclabile, esatto, arrivi esatto, dappertutto. Arrivi anche dappertutto, sei sicuro, sei tranquillo, e quindi si crea un circolo vizioso. Se ti senti sicuro a prendere la bici, prendi la bici. Se prendi la bici, noti che non ci sono pericoli, ti senti sicuro e piano piano si attiva questo. Ecco, poi ci racconterai come si stanno muovendo le amministrazioni, perché poi voi cercate di puntare lì, ovviamente, per fare in modo che siano anche proprio le amministrazioni comunali, certo, a essere attente a questo tipo di logica. Gianluca Cecere, buona domenica, Gianluca. Ciao, buongiorno a tutti. Eccolo Ciao. Qua. Allora, tu l'hai sognato, alcune cose le sogni, alcune le hai realizzate, altre invece realizzerai. Mi rivolgo al tuo, sì, certo, al tuo sogno sicuramente, ma anche al tuo sito. Si intitola I Dream It, e dove it è il punto it, per cui è molto facile. I Dreamed, l'ho sognato, punto it. E dove tu vivi una tua, non so dire seconda vita, forse la prima, in bicicletta, perché è una sfida costante la tua. Ce la vuoi raccontare adesso? Tra l'altro, certo, ci sono anche, cioè, ultimamente sei impegnato in Lampedu Zero, se non mi sbaglio, già fatta e che dovrai rifare quest'anno, no? O che stai facendo? Esatto, a dire la verità sono tornato proprio questa notte. Beh, da, ecco, questo viaggio, da poco, sì, sono reduce da questo secondo viaggio. Allora, è una sfera, è un contenitore di idee e di sogni, e mi piace realizzarle. Per quanto riguarda il sogno dell'Ampedusa Zero, è nato 2 anni fa, e è un sogno in cui, in concomitanza con un'idea di rendere un'isola italiana energeticamente autosufficiente. Ecco, perché la tua sfida è quella di far conoscere la possibilità dell'impatto zero, o insomma quasi arrivare allo zero, per fare in modo che le energie rinnovabili siano conosciute, e tu lo fai proprio attraverso un mezzo a impatto zero, una bicicletta elettrica, se non mi sbaglio, perché i chilometri da affrontare sono tanti. Esatto, l'anno scorso il primo viaggio che ho realizzato è stato con la mia personale Frisbee della ditta TC Mobility di Bolzano, e sono partito da Bolzano e sono arrivato fino all'isola di Lampedusa. E diciamo che mi piace unire le cose, io lo chiamo viaggio-progetto, ossia portare un messaggio ecologico utilizzando un mezzo ecologico. E la cosa è piaciuta tantissimo l'anno scorso, che ci siamo ripetuti anche quest'anno. Cosa succede? Tanti... Ecco, scusa Gianluca, tu vai in giro con la bici e cosa fai? Fermi la gente per strada e dici: guarda, esiste l'energia rinnovabile. Cosa fai poi? Cosa fai praticamente? No, la cosa è molto più concreta di questo, perché lo scopo è di rendere proprio l'isola di Lampedusa e successivamente anche Linosa molto bella. Poi vi racconterò l'esperienza di quest'anno, portando un progetto reale. Ossia, la cosa è nata con un'idea in concomitanza con un concorso internazionale di idee indetto da GSE, Mare Vivo, Università Sapienza di Roma, in cui ho ideato un progetto reale per l'isola di Lampedusa a costo zero, perché ci siamo mossi anche come finanziamenti, quindi l'amministrazione dell'isola non ha costi aggiunti, non ha nessun tipo di costo se non la messa a disposizione delle aree per questo impianto. E questo è piaciuto tantissimo, l'abbiamo rinnovato di nuovo anche quest'anno, portando un messaggio in più proprio quest'anno qua, e abbiamo tenuto una riunione nell'aula magna del liceo e abbiamo voluto portare, grazie anche all'associazione ISES Italia, la formazione per i giovani. Ossia, cosa vuol dire? Non è più una persona lontana dall'altra parte dell'Italia che porta qualcosa per loro, ma sono loro stessi che dopo formazione ideano qualcosa per la loro terra. Con questi corsi diamo la possibilità ai ragazzi di intraprendere un percorso formativo per arrivare a realizzare e ideare qualcosa per la loro terra, che poi può diventare anche un qualcosa di impiego lavorativo. Certo, un mestiere vero e proprio, tu dici, Gianluca. Esatto. La risposta è stata molto alta, perché a quanto pare, avendo replicato Lampedusa Zero, è nato nel 2011 e l'è appena finita di replicare quest'anno, e poi immagino ci sarà anche un 2013 e via di seguito. Gianluca, io dato a tutti do il sito che è idreamed.it, come avevo detto prima, e l'ultima domanda che ti faccio è questa. Tu avevi già la passione, diciamo, per la bici, perché a quanto pare sto scoprendo, un po' lo sapevo ma me ne rendo sempre più conto, che forse proprio partendo dal mezzo, in questo caso il mezzo a 2 ruote assolutamente a impatto zero, anche il cervello comincia a ragionare in quel modo per quanto riguarda le altre cose, giusto? Esatto, funziona così? Sì, guarda, la pedalata che abbiamo fatto in Sicilia di quest'anno è stata una cosa incredibile. L'utilizzo della bici ti apre la mente, porta chiaramente a ragionare in quel modo, per cui è un esatto. modo di pensare al di là proprio di muoversi, ma il muoversi esatto. forse è l'ultimo degli elementi, è il più semplice, è il pensare esatto, più interessante così. Gianluca esatto. ti ringrazio e complimenti, buona domenica. Grazie a voi Simone, grazie, ritorno da te un attimo prima di dare la pubblicità, perché i messaggi che stanno arrivando sono veramente moltissimi, gli ascoltatori li ringrazio, e adesso non riesco a leggerli tutti, te ne leggo uno a caso. Perché ce l'hanno sempre con i ciclisti. Mi piace la bici ma non amo i ciclisti. Nel paese dove abito in estate hanno fatto una costosa pista ciclabile illuminata, ma i ciclisti fanatici non la usano. Adesso voglio capire perché. In città si credono padroni dei marciapiedi, a Brescia vive, e quando esci da un negozio rischi la morte perché sprecciano. Ecco, questo è molto vero, cioè quando uno va sul marciapiede deve stare molto attento all'ingresso e all'uscita dei portoni, è vero. Certo, bisogna usare buon senso e prudenza. La cosa su cui secondo me non bisogna cadere è la guerra tra poveri. Ecco, no? Sì, bravo. Tra utenze leggere della strada, il pericolo reale. Cioè, c'è un problema di percezione, secondo me. La gente è abituata alle automobili e a città con le automobili, quindi non si rende conto. Quindi è normale, tu dici, che uno sfrecci a 80 all'ora in strada, esatto, perché tanto è in strada in automobile, esatto, e invece non è normale che uno vada a 10 all'ora in bicicletta sul marciapiede. Esatto, a 10 all'ora quando va bene, perché insomma, sul marciapiede, soprattutto quando è un po' trafficato, è difficile andare forte. Secondo me c'è un grosso problema di percezione e ci vorrebbe un pochino più di ovviamente di buon senso, di buona educazione da una parte e dall'altra, perché abbiamo, come dicevo prima, la maleducazione. Quella purtroppo manca da tanti punti di vista. Continuiamo a parlarne, e anche con voi ovviamente. Ricordo ancora il numero dei messaggi: 349-238-6666. La pubblicità, e poi torniamo a parlare di biciclette nel riposo del guerriero. Con i miei tre figli e moglie faccio da sempre vacanze in bici e tenda nelle ciclabili nord europee, perché lì dobbiamo andare per vedere le ciclabili. Gli italiani non hanno idea di cosa si possa fare con la bici, siamo indietro di un secolo. E no, non siamo indietro, se fossimo indietro di un secolo useremmo di più la bicicletta, esatto, se fosse vero. Grazie Alex, scrive da Padova. Io ieri ho visto sul lago di Garda due anziani, avranno tedeschi probabilmente o del nord Europa, avranno avuto, credo, lui 75 e lei 70, in bicicletta sotto una pioggia torrenziale, con tutti i bagagli, quindi la tenda eccetera, tutto coperto per l'acqua, e lui aveva davanti alla bici montato la mappa della strada con la copertura di plastica per non farla bagnare. Lui aveva almeno 75 anni se non di più, e lei poco meno. Io un italiano, cioè degli italiani ne conosco qualcuno, ma sono veramente rari. È proprio la mentalità che è diversa. La mentalità è completamente diversa, sì, anche perché loro nascono e crescono in bicicletta perché hanno delle strade che permette anche ai bambini di crescere su un mezzo a due ruote, di approcciare la bicicletta in modo sicuro. E poi vedendo i genitori che vanno in bici, appunto nascono con la mentalità, con l'idea che la bici, ecco, non è un feticcio e soprattutto non è un attrezzo sportivo, perché molti se la prendono con i ciclisti, con i cicloamatori, con quelli che fanno dello sport, che non si affiancano in strada, non stanno a destra. Noi siamo cittadini in bici, per noi la bicicletta è un mezzo di trasporto, per i nordici è essenzialmente un mezzo di trasporto, quello più efficiente ed economico che esiste. Tu pensi che un po' sia dato dal fatto anche che per gli italiani l'auto è uno status symbol? Assolutamente, l'auto è un feticcio, come dicevamo prima, ma lo è sempre di meno. L'amministratore delegato, ecco, lo è di meno, quella è la domanda che ti faccio. Lo è sempre di meno, sì. L'amministratore delegato di Volkswagen un paio di settimane fa ha dichiarato: signori, siamo in piena demotorizzazione, cioè ce ne dobbiamo fare una ragione. E anche le giovani generazioni hanno una tendenza molto più sono molto più interessati all'uso che alla proprietà, cioè, quindi l'auto perde piano piano, gradualmente, il suo significato simbolico e comincia ad essere un mezzo di trasporto che nelle nostre città è sempre meno efficiente. Questo è un dato di fatto. Ecco, voi come Movimento Salva Ciclisti, ovviamente, come dicevo prima, vi avvicinate alle amministrazioni, perché da lì bisogna partire. Secondo la tua e la vostra esperienza di movimento, ci sono amministrazioni più sensibili a questo argomento, alcune meno, oppure in generale c'è un interesse poi concreto, perché poi tutto si dovrebbe concretizzare in qualcosa? Ci sono amministrazioni più sensibili, ci sono amministrazioni meno sensibili, questo va da sé. Ma non ci sono, per esempio, città che puoi sé identificare, ecco, cioè non dovrebbe andare da sé perché ci dovrebbe essere una sorta di obbligo, no? Esatto, perché però... perché la bicicletta non deve avere colore, certo, non deve avere partito, non è una cosa per alcuni e non per altri. La bicicletta è proprio per tutti. Tutti il sindaco, sì, di Bogotà, anche lui qualche settimana fa, oppure di Rima, diceva che un paese è civile non quando i suoi abitanti hanno tante automobili, ma quando i suoi ricchi, quando i poveri hanno l'automobile, ma quando i ricchi vanno in bici. Quindi è assolutamente trasversale. Ci sono delle amministrazioni che stanno facendo di più. A Milano si sta cominciando a fare qualcosa. Si sta facendo il bike sharing, a breve usciranno le linee guida del PUMS, del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile. E si stanno progettando chilometri e chilometri di piste ciclabili, ecco, anche se non è la soluzione ottimale in tutte le strade la pista ciclabile. Ecco, tra le altre cose, scusa ti interrompo, un messaggio diceva perché e come si fa in altre città, Parigi per esempio, un messaggio diceva così, non possiamo fare in modo che le strade dedicate agli autobus, ai taxi diventino anche ciclabili. In questo modo non ci sarebbe quasi da costruire niente, tra virgolette, perché sono già tante le strade pensate per bus e taxi in Secondo Italia. La logica deve essere diversa, cioè la logica può e deve essere per migliorare la vita di tutti, non solo dei ciclisti, ma anche dei pedoni e la qualità dell'aria, la qualità di vita proprio nelle nostre città. La logica è quella di sottrazione dello spazio alle automobili e non di condivisione con i mezzi pubblici, perché i mezzi pubblici devono andare veloce e devono avere strada libera, appunto per essere un'alternativa credibile a tutti quelli che invece pensano che la macchina sia insostituibile. Quindi se mettiamo un'utenza leggera e, se vuoi, lenta per forza di cose, sì, un po' più lenta nelle corsie dedicate ai mezzi pubblici, secondo me non stiamo rendendo un servizio giusto a quello che alla mobilità in generale, certo. Poi parliamo anche di quello, perché c'è proprio una vostra spinta verso l'abbassamento del limite di velocità in città, ne parliamo dopo sicuramente. Piero Serena, Dario Pegoretti, Andrea Pesenti, forse sono nomi che non vi dicono molto, però sono tre fra i più grandi telaisti mondiali. Sì. Alcuni dei loro telai sono esposti anche a musei internazionali, e noi abbiamo una grandissima tradizione ciclistica, appunto come Italia, e grazie al cielo la stiamo recuperando. E c'è Gianni Pegoretti al telefono però in questo momento. Gianni Pegoretti, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, anche Gianni Pegoretti è un artigiano, è un telaista e in realtà è impegnato su un fronte interessante e credo sconosciuto ai più. Esiste a San Patrignano un laboratorio che produce biciclette, costruisce biciclette di grande livello. Gianni, come funziona? Dico bene? Beh, sì, storicamente a San Patrignano, sede staccata di Pergine Valsugana in Trentino Alto Adige, costruiamo biciclette. È una parte della comunità, diciamo, di Rimini, e abbiamo 150 ragazzi che non si occupano naturalmente solo delle biciclette. In officina ne abbiamo una quindicina, e dai primi anni 90 si costruiscono biciclette. Abbiamo collaborato, come dicevi tu, con i grandi telaisti, per cui con Andrea Pesenti, con mio fratello Dario Pegoretti anche, e da adesso andiamo avanti soprattutto facendo carbonio, biciclette in carbonio, telai in carbonio. Noi produciamo telai per noi e anche facciamo una parte come terzisti. Ecco, senti, tra l'altro sono anche telai di valore, cioè sono telai pregiati, e volevo capire fondamentalmente quanto sia, cioè che preparazione bisogna avere e che cosa fate praticamente. Ma diciamo che noi in Italia l'assemblaggio, soprattutto adesso che sta andando per il settore alto di gamma, sta andando molto il carbonio, per cui in Italia abbiamo dovuto, per una questione di costi anche, sì, cercare di fare, di dividere, diciamo, la produzione, nel senso che ormai il 90% di quello che si produce, di quello che si vende, scusi, è prodotto nel Far East, Cina o Taiwan, mentre noi dobbiamo continuare a fare, portare avanti la tradizione italiana del telaio da strada, del telaio su misura, per cui abbiamo dovuto, diciamo, inventarci un modo per usare un materiale pregiato come il carbonio e fare una bicicletta di alta qualità. Per cui partiamo da un prodotto che è il tubo in carbonio, sì, e poi lo sgoliamo come fosse un telaio di acciaio ad alluminio, come si faceva qualche anno fa, sì, certo, e lo fasciamo, cioè mettiamo dei rinforzi strutturali negli snodi del telaio, e così assembliamo il telaio della bicicletta. Ecco, più o meno i costi si aggirano intorno a quale prezzo? Indicativamente, noi, per capire, diciamo di che noi vendiamo un un telaio forcella mediamente sui 2000-2500 euro. Ecco, quindi insomma la fascia è sicuramente molto alta. Poi... La fascia è alta anche perché, come ti dicevo, il tipo di lavorazione è molto complesso, insomma. È molto lungo e complesso, per cui... necessita insomma, ecco, certo, diciamo possiamo, è sicuramente un fiore all'occhiello comunque sia, quindi sì, storicamente noi abbiamo lavorato anche per aziende grosse, abbiamo negli anni sono usciti dai laboratori nostri biciclette anche per Pantani, insomma per gente importante, però questo diciamo è solamente una parte del nostro lavoro. Il nostro lavoro è quello di insegnare ai ragazzi una forma di riabilitazione. Chiaro, è un vero e proprio mestiere, fra l'altro anche particolarmente gratificante, in sì, questo momento ancora di più. Gianni, visto che voi siete a Pergine e Valsugana, siamo vicini a Trento, in generale lì comunque anche l'idea dell'uso della bici è molto presente, no? Quindi sì, certamente, noi abbiamo delle tradizioni dal punto di vista del ciclismo sportivo, pensiamo a Moser, Simoni, Pondies, eccetera eccetera, però diciamo che anche la rete delle ciclabili sia in Valsugana che in tutto il Trentino è molto sviluppata, per cui il ciclista trova qualunque tipo di percorso. Ecco, diciamo anche dal traffico. Certo, l'ultima domanda che ti faccio è questa, Gianni. Tendenzialmente in questi ultimi anni, o nell'ultimo anno in modo particolare, hai notato un interesse più alto verso la bicicletta? Quindi una richiesta anche più alto malgrado i costi delle vostre? Sì, noi usciamo adesso dalla fiera che c'è stata... ce ne sono state tante in questo, esatto, in questo periodo tra Germania e Italia. Sì. Ce ne sono state molte. C'è un interesse, c'è molto interesse, chiaramente il periodo è abbastanza un po' difficile e in più diciamo che il cliente è abbastanza sconcertato da dei prezzi che possono essere... Bisognerebbe far capire, ma questo è il problema di sempre, riguarda tutto. Questo era il problema di comunicazione. Adesso non possiamo farlo in questa puntata, ovviamente, certo. Non possiamo entrare nel tecnico, però vi invito ad andare a vedere come nasce una bici, quali sono le cose importanti, poi come diciamo c'è carbonio e carbonio, acciaio e acciaio, c'è alluminio e alluminio. Sì, vai Gianni, dimmi. No, volevo solo ricordare che noi da una decina d'anni facciamo anche una specie di scuola che si chiama BC Doc, comincerà a novembre e sono una serie di appuntamenti il sabato intorno al 20 di ogni mese in cui spieghiamo diciamo le varie tecniche di lavorazione, spieghiamo la messa in bicicletta, la manutenzione, è una diciamo una scuola aperta a chi vuole iscriversi e si svolge da noi in officina e in comunità, insomma. Senti, che c'è un sito dove potersi informare che ci vuoi dare, Gianni? Il sito è www.bcdoc.com bcdoc.com, poi lo pubblicheremo anche sul nostro sito di Facebook. Grazie Gianni Pegoretti, grazie, buona domenica, grazie. Grazie. Gli aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo a parlare con Simone Dini per questa iniziativa che riguarda la richiesta di abbassare i limiti di velocità nelle città italiane. Ne parliamo tra poco. Sorrido perché fuori onda Simone Dini faccio delle domande poi tecniche sulla bici e mi fa ridere perché scopro che è un purista sempre di più, ma insomma ne possiamo parlare. Allora, prima di arrivare alla vostra iniziativa dell'abbassamento della velocità nelle città, ti volevo leggere ancora qualche messaggio. Ripeto, ce ne sono veramente moltissimi, ringrazio, non riusciamo a leggere in diretta tutti. E bici, mezzo di trasporto, benissimo. Allora che si mettano le targhe alle biciclette, si facciano pagare tasse e parcheggi come per le auto e gli altri veicoli, e che non si infilino contromano, suonino il campanello invece di arrivarti sui talloni senza preavviso, si mettano in coda come gli altri, eccetera eccetera. Ha avuto una brutta settimana. Sì, lo trovo un po' assurdo. Perché sì, quello che stiamo cercando è di rendere le cose più semplici. Esatto. La mobilità proprio più sostenibile, non meno sostenibile. Sì. E qualcuno chiede: mi hanno già rubato 3 biciclette, quindi ho smesso di andarci, ma dove vanno a finire le bici di Milano? Allora, noi non lo sappiamo, però esiste un sito che vi permette un po' di rintracciarle. Però come si chiama il sito, che non mi ricordo esattamente? Mi sembra si chiami Rubici. Rubici.it. Sì. Comunque cercate bici rubate su internet, c'è un sito che raccoglie i mercatini, i posti dove nelle varie città italiane è possibile ritrovare la bici che una volta vi era appartenuta. La questione delle targhe alle bici, ci sono i numeri, il telai per rintracciarle nel caso Delle targhe alle bici è, come dire, dobbiamo fare delle cose per incentivare. Esatto, non esiste neanche all'estero. Sì, e poi un altro messaggio dice, per esempio, dire che anche l'orografia ha il suo peso. Un conto è andare in bici a Bologna, Milano, Parigi, Amsterdam, un altro in città, tutte salite e discese. A meno di non essere uno scalatore alla Pantani, vi sfido a farlo con bambino seggiolino. Allora io in questo senso entro con, ne abbiamo parlato anche prima, con le bici elettriche che ormai è un po' a pedalata assistita. Sì, bici elettrica a pedalata assistita. Quindi voi dovete comunque pedalare, però siete sicuramente agevolati, soprattutto nella salita, non c'è fatica e sono a impatto direi quasi zero, perché comunque funzionano con una batteria ricaricabile che spesso ha un'autonomia di oltre 60 km, quindi più che sufficiente per andare in giro per la città, e in questo caso vi aiuterà veramente a salire e scendere nelle città dove vivete, anche con bambini sia davanti sia dietro. Quindi è una possibilità, è un mondo che comincia a essere conosciuto anche questo, perché bici non vuol dire per forza sforzo fisico a tutti i costi. È vero, tu hai 29 anni e quindi Simone probabilmente ce la fai, magari c'è una persona più anziana o comunque semplicemente con l'impegno dei bambini eccetera, e forse una bici a pedalata assistita può essere una soluzione. Certo, può essere una soluzione. Milano aiuta in questo senso, perché ci sono 3 salite per sbaglio. Sì, insomma, Roma è già un pochino più complesso. Roma, ecco. Sì, Roma è già un po' più complesso, ma in realtà, come si dice, dove c'è una salita c'è sempre una discesa. No? Quindi la fatica dell'inizio e poi la libertà della fine. Il saldo è zero. Arriviamo alla vostra proposta di arrivare al limite della velocità a 30 all'ora nelle città. Sì. Uno slogan diceva: la civiltà ha un limite, no? 30 all'ora, appunto. Tu sei un copywriter, per cui io sono un copywriter, un po' fatto ma non per queste cose. Non l'ho scritto io, questo non mi voglio attribuire paternità. Ma ti piacciono veramente? Sì, ecco. Certo. È una questione veramente di civiltà, perché per restituire le città, ripensare le città per i cittadini che le abitano e non più per le automobili, perché c'è sempre questo problema di percezione. Non ci rendiamo conto che lo spazio urbano nell'ultimo secolo è stato progettato e realizzato per le automobili e non per i cittadini. Sì, ma dentro l'automobile c'è un cittadino, ma il cittadino non è costretto a stare dentro l'automobile. Con il limite di 30 all'ora noi vogliamo portare avanti un primo passo verso il ripensare le nostre città, e innanzitutto e prima di tutto rendere più sicure le città per le utenze più leggere, pedoni e ciclisti, non solo i ciclisti, ma essenzialmente i pedoni. Sono ma ci sono di città, 7.000. Ci sono città che già hanno questo limite, oppure non esiste da nessuna parte in Europa? Esistono in Europa diverse città che hanno ampie zone 30, ampie zone in cui il limite di velocità è a 30 all'ora. Con uno studio in Inghilterra durato 20 anni, sì, di cui un mese fa sono venuti fuori i risultati, ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il limite a 30 all'ora dimezza gli incidenti. E le esperienze in giro per l'Europa di zone 30 sono tutte estremamente positive, sia sulla sicurezza che sugli effetti del traffico, perché è un calmierante naturale del traffico il limite a 30 all'ora. Disincentiva ad un uso massiccio e stupido, se vuoi, dell'automobile, perché c'è gente che veramente è assuefatta all'uso dell'automobile e prende l'auto per fare qualsiasi tipo di spostamento, anche il più breve e banale. Sì, quando riesci, per esempio, con i mezzi ad arrivare tranquillamente, o magari addirittura a piedi, con una bella passeggiata. A piedi, sì, perché ci siamo dimenticati anche di questo grandissimo mezzo di trasporto, cioè i nostri piedi, che sembra una banalità, ma in realtà è così. La riduzione della velocità è uno dei punti del manifesto di Salve Ciclisti fin dall'inizio della campagna. Secondo tanti, la cosa più importante e anche quella, se vuoi, più semplice da realizzare, perché una pista ciclabile costa tanto fatta in un certo modo, fatta con protetta, con dei cordolini, insomma costa. Il limite a 30 all'ora ha il costo dei cartelli, la comunicazione che devi fare, perché devi comunicare. Tu dici è più semplice e a questo punto le ciclabili non servirebbero neanche, va in strada normalmente, perché esatto, tutti si va più o meno alla stessa velocità, esatto, indicativamente. E è importante, ti do un dato significativo, che subire da pedone un incidente, un impatto con un'automobile a 60 all'ora è come cadere da 15 metri, sì, dal terzo piano. Subirlo invece a 20 all'ora è come cadere da 3 metri e mezzo. Quindi c'è un'enorme differenza. Sì, ma anche la percentuale di mortalità è quasi... non è equiparabile, cioè è una questione, è un espediente, se vuoi, un provvedimento semplicissimo che salverebbe tante tante vite. Chissà quanti automobilisti adesso ci scriveranno per dire no, non vorrei mai. ci sono un po' di pregiudizi che vanno, sì, che vanno smontati, cioè che per esempio quello che dice che con la riduzione della velocità ci sarebbe più traffico. Non è vero, perché quando si va più forte le distanze tecniche è proprio di sicurezza che uno aumentano, certo, quindi c'è meno spazio per le automobili e ci sono ovviamente. Beh, come sempre, guarda, scusa, però il discorso un po', sai, quando hanno cominciato a vietare di fumare in generale, certo, nei locali, è venuta, cioè, si è esplosa l'Italia, no? L'Italia dei fumatori, adesso, ma anche non solo, anche quelli dei ristoratori, adesso la gente non verrà più nei ristoranti, no? Invece non è successo, vero, anzi, certo, uno va molto più volentieri perché non gli puzzano più le cose, per cui è proprio una questione di arrivare anche al pensiero giusto per vivere meglio. Certo. Allora ne parliamo, finiremo poi con la seconda del riposo del Corriere. Mi scuso con Maurizio Doro, ci sentiremo dopo che stava aspettando al telefono, ma dopo lo ascolteremo. C'è il GR e poi continuiamo a parlare nel riposo del Corriere ancora di vita a due ruote. Hai scatenato il putiferio con questi 30 all'ora, Simone. Lo sapevamo. Non so adesso quanti ancora si associeranno al vostro movimento popolare Salva Ciclisti. Io vi invito a vedere il sito, comunque, salvaciclisti.it. È un po' come i fumatori: se tocchi la bici o il fumo, guai, in Italia è incredibile. Sono arrivati dei messaggi terribili. Ne leggo solo un pezzetto di uno che inizia così: ma vergognatevi a citare l'Inghilterra. Ma scusate, ma un esempio virtuoso, mi domando perché uno si debba vergognare a citarlo. Io posso citare qualunque cosa. Bisognerebbe non solo capisco imparare perché mi debba che fa vergognare. Meglio di noi. E poi comunque molti dicono già non si rispettano i 50 all'ora, figuriamoci 30, ma questo è un fatto di civiltà generale che riguarda tutti, assolutamente. Certo. E che quindi coinvolge ognuno di noi, quindi non capisco la polemica dov'è. E poi ce ne sono altre che non sto, perché entro nel dettaglio anche tecnico su alcune cose. E c'è un altro messaggio che dice: finché venderanno le bici usate a 30 o 20 o 30 euro si capisce che quelle bici sono sicuramente rubate, perché anche una bici usata non può costare così poco. Concordo, abbastanza, insomma, una bici sempre un costo ha, e purtroppo però i furti esistono e non sappiamo che cosa fare. Qualcuno diceva, beh, l'assicurazione, anche i ciclisti possono far danni, è vero, ma tutti dovremmo avere un'assicurazione di responsabilità civile in generale. Certo, anche, no? In questa logica anche il pedone, insomma, può fare, perché tu puoi danno inavvertitamente colpire uno, andargli addosso, farlo cadere, e questo ti chiede danni, succede. Certo. E quindi invitiamo magari tutti ad avere un'assicurazione in generale di responsabilità civile, perché è utile. Ma sono molte le cose da dire, però grazie, perché veramente così sei riuscito, Simone, a creare un movimento, sì, in qualche modo. Giovanni Morozzo, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno anche a te. Ciclisti non sono visti bene i nostri ascoltatori in generale, te lo dico subito. E allora parliamo velocemente, perché abbiamo poco tempo, di questo Bicycle Film Festival. Si terrà a Milano dall'11 al 14 ottobre, Giovanni. Esatto, è un festival che mi piace ricordare, nato 12 anni fa, quindi in tempi non sospetti, in termini di moda, come parlavate prima. Anzi, a noi piace pensare che abbiamo contribuito un po' a creare questa moda, questa rinascita della bici. È un Bicycle Film Festival, una rassegna internazionale che visita dalle 30 alle 40 città ogni anno, e quest'anno appunto a Milano dal 11 al 14, tre giorni di proiezioni al Cinema Mexico, che è un cinema storico milanese, dove ritorniamo dopo diversi anni. E poi abbiamo organizzato tutta una serie di attività agli spazi ex Ansaldo che il Comune di Milano ci ha concesso e che siamo riusciti a, diciamo, riempire con una mostra molto interessante sui Provos. E ho sentito prima che citavate Amsterdam come città d'esempio, e pochi si ricordano che Amsterdam negli anni 60 era come Milano ora. E quindi era questa sedimentarietà, ecco, esatto. E questi Provos invece sono stati un movimento culturale che proprio a metà degli anni 60 hanno stimolato, diciamo, un cambiamento culturale con le loro famose biciclette bianche, e che hanno aiutato a rendere Amsterdam quella che è oggi, appunto, sia in termini ciclistici che culturali. Quindi invito anche a vedere questa mostra e chiaramente a venire a vedere tutte le proiezioni. Grazie Giovanni Morozzo, è stato molto prezioso, perché penso che sia anche così un consiglio destinato agli ascoltatori che proprio non ce la fanno a sopportare chi va a due ruote per un motivo o per l'altro. Il sito è bicyclefilmfestival.com. Buona domenica Giovanni. Grazie a voi. Velocemente anche un altro ospite, semplicemente perché mi incuriosisce molto quello che sta facendo insieme a un altro amico, e si chiama Valentino Tiperciuk, non so se si pronuncia così, che è Alex Biso. Alex, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica. Insieme a Valentino, Alex gira in bicicletta per l'Italia alla ricerca di ricette ormai perdute. Come funziona? Esatto, andiamo a cercare nei paesini più sperduti, negli entroterra italiani, le nonne, e ci facciamo dare ricette di quelle dei tempi di una volta, dei tempi degli anni 40, 50, dei tempi di crisi, quelle che si facevano con poche cose che c'erano in casa e sapevano benissimo di sapore, e ce le facciamo dare davanti alla telecamera. Stiamo facendo un film su tutto questo, scrivendo un libro, e al limite aiutare un po' anche le nuove mamme che sono sempre lì che dicono non arrivo a fine mese, non arrivo a fine mese. Cioè, l'idea è arrivata perché in tempi di crisi anche la cucina deve essere, tra virgolette, ritornare a essere povera, no? Come quando non si avevano i soldi per comprare e fare la spesa tutti i giorni. E quindi tu dici andiamo con le biciclette alla ricerca di queste ricette, perché comunque torniamo all'inizio della puntata, cioè il pensiero di muoversi in questo modo assolutamente sostenibile aiuta anche a vivere in questo modo. Alex, anche per voi, esatto, è così. Sì. Esatto. E poi noi abbiamo anche un budget giornaliero di 9,99 € al giorno, quindi non potremo fare altrimenti. Ah, certo, un'automobile solo di benzina hai già superato decisamente, esatto, il budget, esatto, a disposizione. Beh, vedremo il film allora, e magari ne parleremo quando uscirà. Grazie, Alex. Buona domenica. Siamo un cuoco da strada su Facebook, il nostro diario di viaggio è già presente. Perfetto, un cuoco da strada. Grazie Alex per la precisazione. Grazie. Io mi scuso con Maurizio Doro, non siamo riusciti a sentirlo, ma vi invito a vedere il suo sito. Maurizio Doro è un ciclista estremo, ma con molte esperienze da raccontare. Sono raccontate sul suo sito, che è mauriziodoro.it. Mi raccomando, senza apostrofo, perché non funzionerebbe su internet. Allora, Simone Dini, attivista portavoce di Salva Ciclisti, a te la chiusura, non dico della puntata, ma comunque dell'argomento bicicletta. Ok, due inviti. Il primo è quello a firmare la petizione 30 e lode. Figurati, dopo quello che ci hanno scritto. Su change.org per avere non città a misura di ciclista, ma città a misura d'uomo. In generale. Città più sicure e più vivibili, con meno rumore, meno inquinamento, meno traffico, e città in cui possiamo riscoprire le città da vivere per strada. E un altro invito è quello a seguire gli stati chi vuole può anche venire a seguire gli stati generali a Reggio Emilia questo weekend, il 5-6 ottobre, organizzati dal Comune di Reggio Emilia, da ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport ieri, fra l'altro. Sì, c'è stata la conferenza stampa, sì, di presentazione a Roma, alla Camera dei Deputati, da FIAB, Lega Ambiente e anche nel nostro piccolo, da Salva i Ciclisti, che insomma ci mettiamo del nostro, non essendo un'associazione, non avendo è una semplicemente struttura, un movimento. appunto, funziona così. Esatto. Noi dobbiamo rimuovere, come è successo ad Amsterdam, avete sentito prima, qualcuno esatto. si è mosso e alla fine l'amministrazione si è mossa e oggi è un esempio. Esatto. Cerchiamo di arrivare anche a quello, secondo me prima o poi ci arriveremo. Impariamo da chi fa le cose meglio di noi. Concordo con te. Stati Generali Bici per chi volesse saperne di più e poi ancora una volta salvaciclisti.it per il vostro movimento. Grazie Simone Dini di essere grazie stato con noi e tra poco il nostro momento di Senti chi parla, la nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa che ci racconta una voce assolutamente protagonista della settimana scorsa del panorama della politica italiano, ma adesso gli aggiornamenti sul traffico. Una voce e tante cose da dire su quella voce e soprattutto su quelle parole c'è Francesca Dragotto. Senti chi parla. La prima a parlare è Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Ciao Francesca, buona domenica. Buongiorno Stefano, buona domenica a tutti. Oggi per essere al passo con i tempi, come si diceva una volta, non possiamo che sentire le parole di Renata Polverini quando è stata proclamata. Sono naturalmente emozionata, molto emozionata. Il vero momento di emozione l'ho provato prima in Corte d'Appello quando mi hanno consegnato la proclamazione. Pensavo fosse una procedura molto più complessa, invece ha richiesto veramente pochissimi minuti. Mi è parso di capire che la parola chiave possa essere emozione. Dici bene, una delle parole chiave, emozione, bello, straordinarietà, intensità, sono quattro parole martello che costellano questo discorso e che ci fanno sicuramente capire quale sia l'atteggiamento psicologico ed emotivo della neoeletta Polverini. Spicca inoltre, nella parte successiva di questo discorso che non abbiamo modo di sentire, un continuo riferimento alla persona. Un riferimento che in un contesto politico generale potremmo leggere come avvicinamento del neoeletto al proprio pubblico, ma che invece, visti i toni della voce, dei gesti, dell'espressione del viso, si può forse spiegare come conseguenza di una sorta di espressione e libertà del proprio ego. Quindi la neoeletta Polverini, come poi accadrà in altri discorsi, utilizza delle varietà che sono molto simili al modo in cui si esprime tutti i giorni. Ecco, di conseguenza esso è un linguaggio semplice, chiamiamolo così, però è semplice per scelta secondo te o perché lei comunque ha quel modo di parlare? Ma sicuramente non è un linguaggio molto costruito dal punto di vista delle varietà che utilizza, si tratta di varietà che sono abbastanza vicine all'italiano popolare. Immaginiamo che ci sia un segmento, nei punti estremi abbiamo il dialetto e il cosiddetto italiano standard. L'italiano popolare sta in quella zona intermedia che dal centro si spinge verso il dialetto. Ecco, e poi invece qualcosa è cambiato nel corso del tempo? Sì, è cambiato. Se ascoltiamo il secondo frammento ci possiamo rendere conto di come in corso di discorso ci sia proprio un passaggio brusco dalle stesse varietà che abbiamo appena sentito a delle varietà che invece scopriremo essere ancora più emotive. Dovermi vergognare di uscire di casa, io non mi voglio vergognare di uscire di casa, voglio guardare la gente in faccia, voglio dire come ho fatto. Perché ho sempre messo la faccia anche sulle situazioni scomode. Perché lo faccio? Ma in questo meccanismo, da trita rifiuti nel quale qualcuno mi vuole portare, non ci vado. Non ci sto. Scandalo Regione Lazio, la Polverini si è arrabbiata a un certo punto. Questo è il discorso che ha fatto seguito allo scandalo Fiorito o Fiorito Gate, come è stato prontamente ribattezzato dai giornali. Se il primo, era il pezzo della politica dei buoni sentimenti e dei luoghi comuni, in questo secondo pezzo la Polverini parla da Presidente della Repubblica e non della Regione. Questo che ho appena detto si riferisce in particolar modo alla prima parte del discorso che non abbiamo avuto modo di sentire. Dico questo perché con una collaboratrice, Simona Di Crescenzo, che anzi ringrazio e saluto, abbiamo fatto l'analisi di tutti i discorsi di tutti i presidenti della Repubblica e ci siamo accorti che nella prima parte di questo discorso post-Fiorito ricorrono tantissime espressioni tipiche dei discorsi di fine anno, non naturalmente nella clip che invece abbiamo appena sentito. Perché? Perché a fare da ponte tra la prima parte, più controllata, più anche proprio da un punto di vista linguistico, proprio più, più vicina a quegli usi che ci aspetteremmo, usi controllati che ci aspetteremmo da un presidente della regione, appunto a far da ponte tra questa prima parte e quella che abbiamo sentito, c'è la metafora del cancro che ha sollevato tantissime polemiche e tantissimi interventi anche sui giornali. La metafora del cancro che è emblematica di come Polverini senta come un tutt'uno il corpo istituzionale e il proprio stesso corpo. E allora i tumori che stanno qua dentro, come nella mia gola, vanno estirpati oggi. A proposito di corpo, fra l'altro faccio notare che lei ha scelto il bianco come vestito, l'ha sempre scelto negli ultimi discorsi e secondo me anche in questo c'è una logica, e veniamo poi alle dimissioni. E allora li mando a casa io. Stessero sereni, perché da domani in poi avranno tanto tempo per fare politica, se si ricordano ancora come si fa. Io l'ho imparato bene ed ho intenzione di continuare, ma ho intenzione di continuare a testa alta, guardando le persone negli occhi, perché io con questi malfattori non ho nulla a che fare. Eccoci quindi all'ultima parte del discorso, analizzato da te, Francesca. Sì, l'ultima parte dell'ultimo discorso, scarsamente pianificato, manca totalmente di lucidità dal punto di vista comunicativo. Basti pensare che nella parte che ha preceduto questo piccolo segmento, Polverini riporta un vero e proprio timing delle dimissioni, quindi dà proprio un calendario di quello che ha fatto e che continuerà a fare. Dicevo che si tratta di un discorso caratterizzato da un flusso comunicativo continuo, ci sono poche pause espressive perché sono volte a mettere in evidenza degli elementi su cui vuole richiamare l'attenzione, e questo discorso si concretizzerà poi un paio di giorni dopo nella distribuzione di buffetti e zuccherini. Se questa puntata non fosse andata in onda di domenica, partendo da questo discorso avremmo potuto preannunciare quello che poi in effetti è accaduto, ovvero l'espulsione dalla giunta di alcuni assessori e il rimpasto che invece ha portato alla conferma dei cosiddetti fedelissimi. Dico fedelissimi perché così sono stati epitetati dalla stampa. Ecco, oggi abbiamo scoperto come conoscere la lingua alla fine ci permette di avere una sorta di sfera di cristallo per prevedere anche il futuro, e la cosa è interessante. Grazie Francesca Dragotto, noi ci sentiamo poi la settimana prossima, e dico anche agli ascoltatori, se avete qualche curiosità, volete che Francesca analizzi la voce di qualche personaggio popolare che vi colpisce in modo particolare per l'utilizzo ovviamente della lingua, fatecelo sapere magari con una mail a guerriero@radio24.it, e poi c'è il sito che segue sempre Francesca, che è tuttopoli.com. Grazie ancora. Grazie a voi, buona domenica. Video game, video game. Armatevi di lente e intuito. Oggi vestirete i panni di Sherlock Holmes, ma anche del dottor Watson. Il testamento di Sherlock Holmes è un'avventura poliziesca ambientata nella Londra del 1898, disponibile per PC, Xbox e PlayStation 3. Tutto inizia in una soffitta, dove tre bimbi ritrovano un vecchio diario, quello scritto dal dottor Watson. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life this far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Nei panni di due personaggi creati da Conan Doyle e in una Londra assolutamente e fedelmente ricostruita, avrete il compito di districare un'imbrogliatissima matassa che vi condurrà alla soluzione di tre misteri molto affascinanti. Sventare un attentato che farà soccombere Londra, capire se Sherlock Holmes sia davvero l'investigatore di cui si parla o piuttosto un abile sovversivo, e capire quale sia il testamento di cui parla il titolo. Il gioco purtroppo non è doppiato in italiano, ma solo localizzato. E così potrete seguire la storia leggendo i sottotitoli. Ma se conoscete l'inglese, non avrete molte difficoltà a comprendere il semplice dialogo costruito con un ottimo inglese che non prevede slang o termini troppo complessi. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. È un gioco che mi ha catturato per via del racconto, davvero molto interessante. Lo si divora come si divorerebbe uno dei romanzi di Doyle, e quando i puzzle da risolvere sono troppo complessi, avrete sempre la possibilità di saltarli per proseguire nella storia e andare avanti con l'indagine. Per riuscire a mettere insieme tutti i pezzi della storia, dovrete davvero usare molto bene il vostro intuito e il vostro spirito investigativo. Ah, you see, but you do not observe, Watson. Consigliato per un pubblico dai 16 anni in su, Il testamento di Sherlock Holmes è un ottimo titolo che vi obbligherà a pensare molto e che vi darà soddisfazione nell'arrivare fino in fondo, come si conviene a ogni buon romanzo. Very well, everything will be done as you wish. Game over. Il gastronauta. E adesso c'è Davide Paolini. Ciao Davide, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono rimasto dopo la trasmissione a Trieste, quindi a godermi un po' le delizie e le eccellenze del Carso. E quindi cosa ci fai scoprire? Mi piace parlare di questo. Sì. Come no? Mi piace parlare perché questo territorio, forse poco conosciuto, ma è anche bello da vedersi dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto ci sono dei vini veramente interessanti. Ci sono due vini che amo molto. Uno è il Terrano e l'altro è la Vitosca. La Vitosca si pronuncia così, non si pronuncia Vitosca come mi hanno detto, mi hanno corretto più volte. È un eccellente vino bianco, soprattutto prodotto da alcuni vignaioli che hanno la tendenza verso la produzione dei cosiddetti naturali, ma anche il Terrano, e di produttori bravi nel Carso ce ne sono davvero diversi, Zidaric, Sechter e poi tantissimi altri, ora ne dimentico sicuramente alcuni, ma devo dire che oltre ai vini, oltre al Terrano, alla Vitosca, in questo territorio si trovano tante eccellenze. Per esempio non avevo mai assaggiato, mai sentito citare il miele di Marasca. Ebbene, è un miele molto particolare, rarissimo, che mi dicono che si produce solamente nel Carso, quindi una rarità. Poi a Trieste, come ti giri, trovi il prosciutto cotto servito caldo nel panino. Sembra quasi, come posso dire, non è uno street food sicuramente, perché è molto più elevato, diciamo, dal punto di vista del prezzo o di altro, però sicuramente è una tradizione di questa città che ad ogni ora mangia questo panino. E devo dire che il prosciutto cotto che si trova qui è sicuramente, non è il prosciutto cotto che si trova generalmente in vendita un po' ovunque, è un prosciutto molto particolare, cioè quelle belle due dita di grasso che molti scartano e che invece io preferisco al magro, ma insomma è quello che dà sicuramente il sapore. Poi ci sono tantissimi altri prodotti ovviamente interessanti, ma soprattutto questi secondo me hanno questa loro peculiarità. E poi i formaggi, c'è un formaggio che viene prodotto sempre da un produttore che si chiama Zidaric, ma non ha niente a che vedere col produttore di vino, se non credo legami di parentela, che si chiama Yamar, ed è un formaggio affinato in un pozzo molto profondo, veramente, che ha dei profumi e dei sapori davvero, davvero unici. Quindi insomma, diciamo che è un bel paniere di prodotti in un'area che è sicuramente piccola, e il vino ovviamente in questa terra, se si va anche nel Cogno e in altre aree appunto del Friuli Venezia Giulia, è una specialità davvero importante. Per anni, diciamo, questo vino ha retto il bianco italiano in giro per il mondo, quindi sicuramente sono vini di eccellenza ed è una terra di eccellenza. Poi sui ristoranti, anche sulle trattorie, bene, sul pesce locale che si mangia, magari rimando ad altra data, ad altra trasmissione, perché sicuramente vale la pena di parlare di questi pesci poveri, che alcuni dei quali sono pescati solamente qui e veramente valgono un assaggio. E ci sono ancora delle trattorie che rimaste tali e quali, e a proposito voglio citare di aver mangiato uno strudel, forse il più buono della mia vita, però alle Susine, e non è la mela ma la susina, e devo dire che veramente è stata una delizia per il mio palato. Ecco Davide, invece noi toglieremo via la rubrica da Riposo del Guerriero, perché ogni volta che ci parli di queste cose ci viene l'acquolina in bocca, avremo fame. Perché Beh, quindi... insomma potresti chiamare anteprima pranzo di mezzogiorno. Va bene, facciamo. Potremmo chiamarla così. Grazie, dimmi. Il riposo del digiuno. Ecco, sì, infatti, no, però non ci piace farlo, perché sentire queste cose invece vorremmo tuffarcici. Grazie Davide, buona domenica. Grazie ancora. Ciao, e continua la tua perlustrazione e anche le tue degustazioni. Io volevo ringraziare anche gli ascoltatori, i tantissimi che hanno scritto oggi, anche magari in modo un po' polemico, però il dibattito è interessante. Vi invito, per qualche curiosità se l'avete, siccome sono arrivate anche tante domande alle quali io non posso rispondere in diretta e anche tecniche, ma se volete un confronto, se vogliamo parlarne, vi dico, potete scrivere a guerriero@radio24.it oppure sulla pagina di Facebook del Riposo del Guerriero, perché sarebbe interessante andare avanti, visto, ribadisco, che l'argomento vi ha coinvolto in un modo o nell'altro sicuramente molto. Tra poco invece giocheremo con Picasso in 24 minuti, per voi la possibilità di portare a casa il catalogo della mostra a Milano, a Palazzo Reale, e anche il biglietto d'ingresso, e anche la garanzia di partecipare alla prossima puntata che mette in palio invece il viaggio a Malaga per due persone. Il numero per prenotarvi 800 24 0024 dopo le previsioni del tempo. Picasso in 24 minuti. Picasso, i capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, in mostra a Milano a Palazzo Reale fino al 6 gennaio 2013. Per voi la possibilità di ricevere il catalogo, il biglietto d'ingresso, e chi riesce a portarsi a casa queste cose si prenota automaticamente anche per la prossima puntata che mette in palio un viaggio a Malaga per due persone, proprio nei luoghi dell'artista. Per partecipare 800 24 0024, cosa dovete fare? Io vi farò adesso ascoltare una canzone e dovete capire attraverso la canzone quale opera di Picasso in qualche modo ha a che fare con quello che avete appena ascoltato. Ecco la canzone. Con la mia testa io vi conquisterò, io vi strabilierò con mille qualità, io ridere farò coloro che tra voi non hanno riso mai, gridare li farò, io vi farò godere le pene dell'amore, io vi innamorerò parlandovi di me, di come so piacere mettendomi ad amare, di quello che so fare in mille modi e più. E per chi vuol vedere le gambe, il mio sedere, vestiti trasparenti, vi accontenterò, io vi accontenterò, perché mi pare giusto di non negarmi il gusto di ridere di me. Nessuno ci sarà che mi resisterà, e uomini e ragazzi per me saranno pazzi, e se c'è chi tra voi qualcosa in più vorrà, magari immaginandomi tra mille voluttà, io lo sconvolgerò scegliendo tra di voi quello che più ha provato e amare non sa più. Per quello che mi costa io non dirò mai basta, io perderò la testa ma non mi fermerò. Coraggio, approfittate, voi siete chi mi ama, o almeno lo credete, per questo sono qua. E se vi sembrerò un poco malinconica, quando verrà domenica allegra tornerò. E son qui radiografata, son nuda anche vestita, di me sapete tutto, Alessandra, provincia di Lucca, buona domenica, eccoci. Grazie. Allora, questa è una canzone di Mina scritta da Don Buggy, se non mi sbaglio, molti anni fa, siamo negli anni 70, si intitola Nuda e lei è Mina e dovresti arrivare a una delle opere di Picasso che c'entrano in qualche modo con questa canzone. Qual è l'opera, Alessandra? L'acrobata. Non è l'acrobata. Alessandra, mi dispiace. Ciao. Grazie, bene, grazie, grazie, ciao. No, non è l'acrobata, Graziella da Grosseto. Buongiorno, Graziella. Buongiorno, buongiorno, un grandissimo piacere parlare con lei. Mio, allora, grazie. Che cosa diciamo? Quale può essere l'opera legata in qualche modo a questa canzone? Io ho pensato alle Damigelle d'Avignon. C'è già, tra l'altro, è stata un'opera già usata nelle scorse settimane. Anche una delle più famose, ecco, sì, di Picasso, sì. Però non è quella, mi dispiace, grazie, che rabbia, grazie, a te, grazie. Beatrice, della provincia di Monza, buongiorno Beatrice. Buongiorno a lei, ci provo. Dai, non è difficile, Allora, io direi La Pisseuse. No. Mi viene la rabbia perché io trovo che sia veramente facile, cioè facile, insomma abbastanza, perché, vabbè, non posso dire molto, però insomma, la canzone è chiara. Grazie, ciao. Arrivederci. Nadia, dalla provincia di Treviso. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Allora, Nadia, ma hai capito la canzone come si intitola? Purtroppo pensavo anch'io alle Damigelle d'Avignon. Ma e quindi. Vogliamo riscoltare un pezzettino della canzone. Ecco, e la canzone fa così. E per chi vuol vedere. Gambe il mio sedere, vestiti trasparenti, li accontenterò, io mi accontenterò, perché mi pare giusto di non negarmi gusto, di ridere di me. La canzone si intitola Nuda, e lei è la voce di Mina. Lei è Mina. Nadia, quale può essere l'opera? Niente, rinuncia. Che rabbia, Nadia. Ciao. Ciao. Clara, dalla provincia di Milano. Clara. Pronto, Clara? Chiara? Chiara, forse. A me hanno scritto Clara. Va bene, Chiara, va bene. Assomiglia, c'è un'assonanza. Allora, sei tu però. Quale opera può essere? Ho due opzioni. Provo con una delle due. Nuda in poltrona rossa. Qual era l'altra opzione? Quello che hanno, il quadro che hanno ritrovato, che è in pratica Donna Nuda. Guarda, entrambe le opzioni non sono giuste, ma ti sei finalmente avvicinata molto al titolo dell'opera che avevo in testa. Oh, che peccato. Sì, che peccato, sì, Clara. Ci vuoi riprovare, però? Puoi riprovarci, come tutti. Grazie, Clara. Perfetto, ciao, grazie. Ciao. Maristella da Roma, Maristella. Chi è che la ti donna sta che piange. Ma perché la donna che piange? Era le Demoiselle d'Avignon. Ma l'hanno. Abbiamo già detto che non è quello il quadro, e poi è troppo famoso. Ma poi ho detto all'ascoltatrice di prima, Chiara, che si era avvicinata molto. Sì, ti ha consigliato tuo marito, perché ho sentito una voce. Sì, era il maritino. Sì. Digli che ha sbagliato, però. Sbagliato, vedi, ho perso il figlio. Ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Ciao. Ho perso il figlio, c'è Maristella adesso? No, c'è Francesco da Napoli. Francesco, Maristella era quella di prima. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Francesco, mi dici il titolo di quest'opera di Picasso che ha a che fare con questa canzone? Guarda che prima Chiara si è proprio avvicinata, eh. Allora, donna nuda dormiente, uomo che suona la chitarra. No, perché è un titolo solo. No, è il titolo dell'opera, è proprio questo. No, cioè, sì, perché abbiamo fatto anche Uomo con chitarra, era anche un'altra opera, però è molto più corto il titolo e purtroppo non è questo. Francesco, che rabbia, mi dispiace. Bene, ciao. Prego. Dobbiamo farlo per l'ultima puntata questo quadro, perché Mariangela da Bergamo, buongiorno Mariangela. Buongiorno, io ci provo, non so se è già stato detto, la lettura, No, non è quello. Niente. Mi dispiace molto. Ciao Mariangela, grazie. Io dicevo che Chiara si è proprio avvicinata parecchio al titolo, è lì, siamo lì, insomma, avete capito. C'è la viabilità adesso e poi continuate. 800 24 0024. Picasso in 24 minuti. Gabriella da Napoli, ciao, buongiorno. Salve. Gabriella, hai capito il titolo? Io avevo. Aspetta, anche tu. Ho capito, ma abbiamo detto che non è quella giusta. Il titolo della canzone è Nuda. Quale può essere il titolo? La nuotatrice? No. La donna nuda su una poltrona rossa. L'hanno detto prima e non è giusto. Siamo vicini, pochino, come si dice. Ciao Gabriella, mi dispiace. Un po' di rabbia ce l'ho, però, perché capisco, non è così facile, però insomma, ormai avreste dovuto capire. Ma intanto che cercate magari un titolo su internet, se potete. Sentiamo sempre il nostro Luca Scarlini che ci racconta un momento della vita di Picasso. Picasso dipinge la grande attrice giapponese Sada Yako. Sada Yako porta il Giappone in Europa. È una danzatrice, ma prima era una geisha e anche un'attrice, fa un mix delle forme del teatro giapponese tradizionale e lo propone all'Europa. Tutti impazziscono. Giacomo Puccini trae da lei l'ispirazione per l'opera famosissima Madame Butterfly e Picasso la dipinge più e più volte dopo averla vista a Parigi. Restano alcuni disegni in cui lei dà prova di una interpretazione particolarmente accesa nel racconto di storie di principesse giapponesi del Medioevo. Pablo Picasso ne rimase particolarmente colpito. Un'altra, quindi, un altro momento della vita dell'autore. C'è Graziano dalla provincia di Roma. Graziano, no, non c'è più. Giulia dalla provincia di Monza. Giulia, ciao. Sì, buongiorno. Tempo con un nudo sdraiato di Picasso. Eccola qui. Brava, brava Giulia, sono contento. E hai portato a casa il catalogo della mostra Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, il biglietto d'ingresso, ci potrai anche andare perché non sei neanche distante da Milano, ovviamente. E poi parteciperai alla puntata di domenica prossima che mette in palio invece il viaggio a Malaga. Giulia, complimenti. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie mio. E c'è un'altra canzone, perché c'è un altro quadro da indovinare. E vi posso anche dire che è più facile. Facile probabilmente rispetto a quello che è appena stato indovinato. Ecco la canzone. Vecchio successo di Zucchero con le mani, questo è il titolo. Piero da Milano, buongiorno. Buongiorno, il mio titolo è Figure sulla spiaggia, non è donna nuda come ha detto la signora di prima. No, era, allora aspetta Piero, c'è stata un'incomprensione, perché il titolo del quadro era Nudo sdraiato. Vabbè. E aveva indovinato la ragazza. Allora, questo quadro invece ha a che fare con la canzone che ho appena fatto ascoltare. È un altro dipinto e la canzone si intitola Con le mani. Quale quadro può essere che ha a che fare con questa canzone di Zucchero che ho appena fatto ascoltare? Come faccio a dirlo subito? Non lo so. No, c'è ragione, pazienza. Che rabbia. Grazie Piero, ciao, buona domenica. Giampiero invece abbiamo adesso da Varese. Giampiero. Sì, ciao. Allora, in qualche modo, tra l'altro, il quadro che dovrai indovinare adesso ha a che fare con le Damoiselle d'Avignon, già citato prima. Qual è il titolo di quest'opera? Io proverei con questo titolo di quadro, Jacqueline con le mani. No, mi dispiace. In qualche modo c'entra ovviamente, però non è quello che avevo pensato. Grazie Giampiero, bravo. Prego. Grazie. Ciao. Beatrice da Milano, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, quale può essere l'opera che ha a che fare con la canzone che ho appena fatto ascoltare? E ti aiuto dicendo che in qualche modo ha a che fare con le Damoiselle d'Avignon. Utoli testa in mani? No, non è testa in mani, mi dispiace Beatrice. Rita da Roma, buongiorno, Rita. Buongiorno. Io mi ero prenotata per l'altro, forse due donne che corrono? No, dobbiamo correre un'altra parte, ma no, niente a che fare. Le donne non stanno correndo, non le nostre qua in questo momento. Grazie Rita, mi dispiace. Il numero per partecipare è 800 24 00 24. C'è Maria Rosaria da Frosinone. Buongiorno. Sì, ciao Maria Rosaria. Allora, Io mi ero prenotata per prima, però ho sentito adesso a che fare con le mani. Penso donna con ventaglio. No, sai perché che rabbia? Perché partite sempre bene e poi è dopo che c'è l'errore. È bello associare il ventaglio alle mani, perché infatti è così che funziona, però non è la risposta giusta. Mi dispiace Maria Rosaria. Grazie. Marisa da Bergamo, buongiorno Marisa. Buongiorno, purtroppo su questa non sono preparata. Allora guarda, l'inizio è donna, sì. Donna. Sì. Poi con che cosa? Con? Donna. Con, come si intitola la canzone? Le mani. Con le mani come? Con le mani sul... sul catalogo, sul catalogo. Non lo so. Che rabbia, tante, la seconda volta, l'altra volta ne sapevo due. Marisa, cosa dobbiamo fare? Provaci la prossima, che magari porti a casa il viaggio a Malaga, dai. Sicuramente. Ciao Marisa, bene, grazie. Grazie. Abbiamo ciao. 30 secondi, Maura da Prato. Maura, almeno tu mi dici il titolo dell'opera di Picasso? Maura, non c'è proprio, è andata da qualche parte. Allora c'è Gianni, sempre da Prato. Gianni? Sì, ci sono. Mi dici il titolo dell'opera? Abbiamo detto quasi tutto, quindi sì. Lo ripetiamo, vai. Mani di pane. Gianni, no. Ciao Gianni, mi dispiace, ciao. Maria da Roma, Maria. Eccomi. Mi dici il titolo dell'opera? No. Non hai neanche giocato Maria, ciao, neanche hai partecipato, ho già capito. Lo devo dire, era facile, insomma. Donna con le mani giunte, ecco, ed è un dipinto legato allo studio per le Damoiselle d'Avignon, per questo in questo c'entrava. Grazie a tutti, noi torniamo domenica prossima con il riposo del guerriero, puntuali come sempre alle 10, vi aspettiamo, grazie alla redazione con Giorgio De Luca, all'assistenza di Nadia Zammitti che oggi appunto per la prima volta fa assistenza al programma e che ringrazio, Roberto Scaltritti in regia, a voi, buona settimana da parte di Stefano Gallarini, sentiamo domenica prossima alle 10 con il riposo del guerriero.